Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata e benvenuti. Chi di voi è andato di recente ad una spa, ad un centro benessere o ancora alle terme? E quanti di voi vorrebbero tornarci o andarci per la prima volta? La tentazione, diciamocelo, è molto forte, l'idea di entrare stanchi, un po' stressati e di uscire se non come nuovi, rinnovati, è molto allettante. Voi che ne dite? Chiamateci, ne parliamo oggi in questa puntata in cui insieme a tanti esperti sceglieremo i trattamenti per la nostra remise en forme. Le proposte sono tante, a volte si rischia di perdersi, ma dato che il tempo è poco, di solito ci si regala un weekend e alcuni trattamenti costano, cerchiamo di arrivare con le idee ben chiare. Se le avete già, ditecele. Se invece avete qualche dubbio, chiamateci. Il numero verde è sempre uguale 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666. Perfetto, grazie, ci vediamo sabato prossimo. Paolo, il tuo amico è un genio. Te l'ho sempre detto io. Chi dici, Pino o Budello? No, io, il tuo amico, io sono un genio, hai capito? Ho appena prenotato un weekend alle terme, tutto compreso. Oh. Alle terme? Tu hai pagato per passare due giorni tra fanghi e alghe e non hai mai voluto venire a pescare con me, Budello? Che c'erano fanghi quanti ne volevi, alghe assassine, e al massimo ti chiedevamo i soldi della benzina, tu sei un genio. Le terme sono un posto triste. Le terme non sono un posto triste, come dici tu, alla sera si balla, io sono un grande ballerino. Bene, venite con me alle terme in una spa, in un centro benessere, godiamocela un po'. Già l'idea mi mette il buon umore. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale e docente all'Università di Pisa e di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, centri termali, spa, centri benessere, iniziamo un po' a scegliere dove andare, perché quelli che noi usiamo spesso come sinonimi, in realtà sono termini che si riferiscono a realtà un po' differenti tra di loro. Ci aiuta un po' a fare chiarezza? Sì, è bene fare chiarezza perché c'è un po' di confusione. Per centro benessere possiamo intendere, è logico, un luogo dove è possibile fare magari in un ambiente accogliente, in un ambiente rilassante, una serie di trattamenti appunto benefici per il nostro corpo, ma per il nostro insieme fisico e corpo. Sì. Il centro benessere può essere annesso a palestre, a centri estetici, ad alberghi, insomma. La spa è una cosa diversa. La spa è un centro benessere, però dove si sfrutta l'azione benefica dell'acqua in tutte le sue forme, come i bagni, le vasche, le piscine, gli idromassaggi, le docce, ma anche altre forme dell'acqua, come il vapore, per esempio i bagni di vapore oppure i bagni turchi. Sì. Mentre, cioè, come molti sanno, spa significa salus per acqua, cioè la salute è grazie all'acqua, non è un termine americano, è un termine che deriva dal latino. Alle terme c'è qualcosa ancora in più, c'è un valore aggiunto, il valore aggiunto del benessere e della spa sono le acque termali, quindi la qualità delle acque termali, e che le terme sono sempre state una spa perché salus per acqua, ma soprattutto hanno in più rispetto all'acqua semplice che si viene utilizzata in molte spa il valore straordinario delle acque termali, quindi una caratteristica in più, un passo in più. Quindi alle terme si può andare per cura, ma soprattutto per il benessere e per la rimessa in forma. Quindi se avete qualche desiderio, qualche esigenza e volete farvi dare un'indicazione dal professor Bonsignori, 800 24 00 24. Intanto professore, le abbiamo un po' differenziate, ma di ciascuno di questi luoghi di benessere proviamo a dare un'indicazione, proprio partendo dalle caratteristiche che lei ci ha appena spiegato. Quindi lei consiglierebbe un centro termale per? Chi va alle terme o chi va in una spa è un soggetto, un signore, una signora, un giovane ragazzo, una giovane ragazza che sono innamorati dell'acqua, che amano l'acqua, amano immergersi nell'acqua piacevolmente, non soltanto per una cura o per avere le straordinarie potenzialità che hanno le cure termali, ma anche proprio per trovare da un contatto con l'acqua nelle sue varie forme dei vantaggi, anche benessere, quindi piacevolezza, benessere, effetti positivi e collegati anche a vantaggi immediati, per esempio sulla nostra pelle che risponde positivamente. Mentre chi va in un centro benessere anche senza l'uso di acqua può utilizzarlo per un stupendo e anche breve break, soprattutto attraverso delle proposte che nei centri benessere sono sempre presenti, come per esempio tutta quella che è l'arte straordinaria del massaggio. Noi in questi centri possiamo trovare, in alcuni, no? Come lei ci ha spiegato, la piscina, le piscine termali e non, poi ci sono la sauna, il bagno turco, i massaggi, l'offerta è davvero ampia, ma la domanda, come direbbe qualcuno, sorge spontanea: è sufficiente un weekend? Un fine settimana, uno è meglio di zero, due è meglio, sì, di uno, ecco. Guarda Nicoletta, un fine settimana può essere sufficiente, però dobbiamo avere chiaro l'obiettivo che vogliamo cogliere, quindi sufficiente per un relax, sì, ricco di suggestioni, finalizzato a quello che possiamo definire un vero riposo attivo, ma soprattutto utilissimo per il recupero dell'energia, no? C'è una specie di fuga per ricaricare quelle che sono le pile scariche e un organismo, una psiche stressata. Questo è un effetto che tutti noi possiamo apprezzare, ma ci sono anche effetti positivi che si possono constatare, toccare con mano fino ai primissimi trattamenti. Penso per esempio ad un bagno adeguatamente preparato, quindi un bagno termale o un bagno in una spa, si ha immediatamente un rilassamento muscolare, un ritorno buono subito anche per quelle che sono le posture sbagliate, le contratture, la postura sbagliata, la posizione sbagliata. Basta intendersi, cioè quando si va in un centro benessere, una spa o alle terme, è sempre importante stabilire la quantità e la qualità dei trattamenti, quindi una supervisione medica è comunque consigliata per la persona che si avvicina alle terme o alla spa, ma anche per la vigilanza sulle norme igieniche delle acque e delle piscine, che sono cose estremamente importanti. Abbiamo subito in linea con noi Gianfranco, ci chiama da Trieste all'800 24 00 24. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, desideravo partecipare alla trasmissione dicendo semplicemente questo, che io e mia moglie siamo gli abituali frequentatori di terme, specialmente qui nella zona di Trieste, zona di confine, sforiamo molto spesso nella Slovenia, dove troviamo degli ottimi prodotti che sono molto vicini e soprattutto competitivi con le zone, non so, di Abano, sì, Montecatini, via dicendo. Che acque ci sono? Che terme ci sono, professor Bonsignori? Che virtù hanno le acque delle terme che frequenta Gianfranco? Di acque. Ci sono dalle acque solfate alle acque salzo-bromiotiche e hanno una buona tradizione anche per quanto riguarda la talassoterapia. Però devo dire al nostro ascoltatore, a Gianfranco, che anche le terme italiane, che presentano una varietà eccezionale, sono le terme più importanti, anche più varie in tutto il mondo, questo ormai è certo, presentano delle proposte molto interessanti anche da un punto di vista economico, quindi si possono frequentare anche le terme italiane con una ottima risposta, grande serietà, grande tradizione per il benessere e per la cura, ma anche con una spesa adeguata. Gianfranco, quali sono i benefici che lei riscontra con questi rapidi, immagino, soggiorni alle terme? Abbassamento dello stress, banale. È un certo sollievo nel fatto che io soffro di ernia al disco, sì, perciò molto volentieri quando ritorno mi sembra di aver preso una schiena nuova appena che torno indietro. Ah, che bello, con la schiena nuova. Grazie a Gianfranco che ci ha chiamato da Trieste all'800 24 00 24. Professor Bonsignori, si parla infatti di medicina del benessere, che come lei mi insegna e mi ha detto più volte è un po' l'anticamera della medicina preventiva, una medicina, certo, rivolta alle persone sane che vogliono continuare a stare bene e a potenziare il loro benessere se è possibile. Sì, è un po' una nuova concezione della medicina preventiva, è un po' quella che io definisco l'anticamera della medicina preventiva, è una vera e propria promozione della salute, una promozione attiva dove il soggetto è impegnato appunto a promuovere ancor più quello stato di buona salute che ha, per evitare poi in futuro quelle che potrebbero essere delle malattie che si potrebbero presentare. Quindi è un qualcosa di individuale che bisogna cogliere per poter poi avere dei sicuri benefici nel proseguo della nostra vita. Quindi andiamo a fare medicina del benessere in una spa, in un centro termale, ma anche in un centro benessere, consapevoli che questa è già una misura di medicina preventiva. E a proposito di benessere, è una parola che utilizziamo spesso, a cui però la Carta Costitutiva dell'Associazione Europea di Medicina del Benessere dà proprio una definizione. Vediamo se siete d'accordo anche voi. C'è una grande differenza tra stare bene e non essere malati. Infatti, se non essere malati significa non presentare alcuna patologia organica o psicologica, stare bene rappresenta quello stato di salute psicofisica ottimale che permette di esprimere al meglio tutte le potenzialità fisiche e psicologiche. Siete d'accordo? Un soggiorno in un centro termale, in un centro benessere o una spa è riuscito in qualche modo a farvi sentire meglio? È stato veramente una coccola, uno strumento di benessere? 800 24 00 24, oggi siamo in viaggio, ma abbiamo parlato dell'acqua e vi invito a chiamare perché il professor Bonsignori può suggerirvi oggi in diretta l'acqua, le acque che fanno al caso vostro, ma sappiamo che ci sono anche i massaggi. Lo stesso Ippocrate, pensate, all'inizio del V secolo avanti Cristo, ne descriveva le numerose proprietà terapeutiche e avvertiva che il medico deve avere molteplici esperienze, ma deve conoscere sicuramente l'arte del massaggio. Non so se i nostri medici di famiglia conoscono l'arte del massaggio, sarebbe bello, ma a proposito di medici e di medicina, la ricerca dimostra che i massaggi fanno davvero bene. Andiamo a sentire. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Alternative and Complementary Medicine, autorevole rivista medica, i massaggi sono in grado di ridurre la quantità di ormoni dello stress e riescono a potenziare le risposte messe in atto dal sistema immunitario, aiutandoci a proteggerci dalle malattie e dalle infezioni. La ricerca, firmata dal Dipartimento di Psichiatria e Neuroscienze Comportamentali dell'ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, è stata condotta su due gruppi di adulti statunitensi, uno composto da 29 persone sottoposte a sessioni di 45 minuti di massaggio svedese, usato anche dagli sportivi per il recupero muscolare, l'altro composto da 24 volontari trattati con manipolazioni della stessa durata, ma molto più leggere. I ricercatori hanno analizzato campioni di saliva e sangue dei pazienti prima, durante e dopo le sedute. Quelli sottoposti al massaggio svedese hanno fatto registrare, assieme a un aumento dei linfociti, una significativa diminuzione del cortisolo, ormone dello stress. Allora, fanno davvero bene, professor Bonsignori, lei concorda? C'è proprio uno stato di benessere che coinvolge sia il soma che la psiche? Concordo pienamente con quanto è stato letto adesso. Ci sono delle prove, appunto, documentate da ricerche scientifiche serie, quindi con una metodologia scientifica, che il coinvolgimento, grazie ai massaggi, ma anche grazie alla balneoterapia e grazie a altre pratiche benessere che si possono fare appunto nei centri benessere, nelle spa, nelle terme, ci sono delle vere e proprie risposte fisiologiche del nostro organismo, fisiologiche sono come appunto sentivamo prima, ma anche la stimolazione di certi neuroormoni che sono la serotonina, le endorfine, sono ormai acquisizioni che meritano un ulteriore approfondimento scientifico, ma siamo sulla buona strada per dare delle risposte scientifiche serie a quel beneficio che tutti noi sentiamo quando usciamo da un centro benessere o da una stazione termale. È importante però scegliere il massaggio giusto, quello che fa proprio al caso nostro. Ci aiuterà oggi Vincenza Fresta, che è massofisioterapista, consulente di molte spa e docente di corsi di formazione per operatori di benessere. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno al professore e gli ascoltatori. Siamo nelle sue mani perché ci sono tanti tipi di massaggi e ci sono anche un po' le mode dei massaggi, vero? Perché c'è il tempo in cui va quello svedese, poi quello thailandese, poi quello con le pietre calde. Insomma, noi oggi cercheremo proprio con lei di capire, oltre che naturalmente se ci affidiamo all'operatore sa sicuramente il massaggio da consigliarci, ma è meglio arrivare con un po' preparati. Anche perché, signora Fresta, io immagino che non tutti si rilassano allo stesso modo. È chiaro questo, diciamo che le tipologie di massaggi sono le più varie e tutte hanno la finalità di riportare il corpo in equilibrio. Mi è piaciuta moltissimo la definizione che ha dato il professore prima, promozione della salute, e credo che il massaggio sia uno dei mezzi più importanti per fare questo. E, però le tipologie di massaggio sono varie, ma anche le persone sono diverse nell'approccio con il massaggio. Ci sono persone che si rilassano con un tocco delicato e nell'immobilità, persone invece che hanno una tale carica di energia che l'idea di rimanere sdraiati per lungo tempo quasi no, li fa sentire a disagio, ed è per questo che ci sono varie tipologie di massaggio che si possono scegliere. Quindi possiamo scegliere se abbiamo se riusciamo a star con fatica in una condizione di rilassamento, di ci sono delle persone che sono arrivano talmente cariche, un po' caricate a molla, che l'idea di stare nella penombra con una persona che ti sfiora, con il sottofondo musicale, il profumo magari, no, l'aroma di questi oli che vengono utilizzati, i primi 10-15 minuti ha una sorta di insofferenza. Esattamente. E invece chi ama farsi un pochino farsi massaggiare con un massaggio un pochino più energico. Io penso al massaggio svedese, ma sbaglio, perché non è solamente il massaggio. Che tutte le tipologie di massaggio, quello svedese, come altri tipi di massaggio, come possono essere anche i massaggi che privilegiano gli sportivi, sì, o i massaggi decontratturanti in genere, i massaggi che riportano all'equilibrio posturale, i massaggi che sono più in movimento rispetto all'asticità di un tocco setoso e rilassante, possono per queste persone essere più adeguati e quindi poter dare questa scarica sul corpo che gli permette poi di alleggerire la mente. Io voglio proprio coinvolgere i miei ascoltatori che ci stanno già chiamando per capire da loro quali acque avete provato e quali massaggi vi hanno dato il maggiore beneficio. Qual è il tipo di massaggio che vi rilassa di più o vi tonifica di più? Perché noi spesso, signora Fresta, chiediamo ad un massaggio di rilassarci, invece un massaggio magari deve poter sapere anche tonificare, c'è anche bisogno di quello. Esattamente. Per tonificare bisogna comunque mantenere un ritmo sul corpo che permette poi al corpo di distendere la muscolatura in maniera più profonda. Sì. Perché qualche volta il tocco più leggero non riesce ad arrivare fino in profondità, almeno su alcuni tipi di persone che hanno una mente troppo attiva, mentre ce ne sono altre che con il tocco leggero riescono ad avere poi invece una risoluzione di contratture o disagi di gonfiore, di tensioni, anche molto profondo. Però dipende dalla tipologia di persone, quindi nella scelta che può fare una persona andando a analizzare un menu che propone No Spa, sì, è quella di capire com'è qual è il proprio desiderio. Quindi se il proprio desiderio è di avere stimolo, che il rilassamento avviene attraverso il movimento, magari facendosi una corsa o avendo un'attività abbastanza mentale abbastanza attiva, che poi invece viene a calmarsi stimolando, sì, il corpo, allora può scegliere quei massaggi più profondi. Mentre se l'idea di rilassamento passa attraverso un'idea di carezza o di leggerezza, di tocco, può scegliere tutti quelli che vengono considerati come massaggi rilassanti. Professor Bonsignori, perché a me piacerebbe provarli tutti e due? Si può, no? Certo. Un prima uno, poi l'altro. Andiamo. Quello che dice la nostra Vincenza è sicuramente la testimonianza di quanto è importante cogliere la soggettività, quindi personalizzare i trattamenti, pensare alla proprio cercare di capire quello che è l'esigenza vera e intima di un soggetto quando si appresta ad andare in un centro benessere, una spa o una stazione termale, è veramente fondamentale. Ecco dove è importante che ci siano degli operatori qualificati, che abbiano avuto una istruzione e preparazione qualificata e anche eventualmente con una supervisione medica per poter dare una risposta completa alla necessaria personalizzazione dei trattamenti. Allora, abbiamo Caterina da Bari in linea, ma abbiamo i mercati. E allora, Caterina, buongiorno, devo salutare. Buongiorno, dottoressa Carbone, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Caterina, sa che io la inviterei a sentire come i mercati, il meteo. Intanto ricordiamo il nostro numero verde, se volete intervenire come Caterina, 800 24 00 24. Abbiamo Pietro Lacorte in regia che mi sta dicendo mercati, mercati, mercati. Essere e benessere. Essere benessere, per l'appunto, oggi cerchiamo insieme i trattamenti per la nostra remise en forme. Andiamo alle terme, il professor Bonsignori riuscirà sicuramente a suggerirci le acque migliori per il caso nostro, ma parliamo anche di massaggi, come fare a scegliere quello che ci aiuta a tonificarci oppure a rilassarci. Voi quali avete provato? Me le volete consigliare? Così faccio anch'io un saltino alle terme, sono preparata, o in un centro benessere, in una spa. Adesso ormai abbiamo capito le differenze. 800 24 00 24. Abbiamo Caterina con noi che ci sta aspettando. Buongiorno Caterina, anzi ribuongiorno. Buongiorno dottoressa Carbone e complimenti per la trasmissione. Volevo farle una domanda, o meglio al professore. Sì. Io sono stato un paio di mesi fa a Ischia, al centro termale di Ischia, perché ho dei problemi in spalla. Ho fatto una decina di bagni termali, avendo però avuto un melanoma in situ sulla coscia 4 anni fa e mi sono anche operata. Sì. Volevo capire se tutto questo poteva causare un danneggiamento, un peggioramento, oppure lasciare la situazione nello status quo. Grazie. Grazie. Professor Bonsignori, Caterina ci dà lo spunto per capire se ci sono, oltre che delle indicazioni, delle controindicazioni. Caterina sfrutta molto bene l'indicazione delle acque di Ischia, che sono acque salso-bromo-iodiche e sono veramente un buon presidio per quanto riguarda le forme dolorose, la spalla dolorosa o altre problematiche reumatiche. Intanto che lì mi dice, oltre a Ischia, quali sono le altre stazioni con salso-bromo-iodiche? Per questi abbiamo Abano, abbiamo Acqui Terme, abbiamo Santa Margherita Savoia, che è più di più una talassoterapia. Sì. Abbiamo Torre Annunziata, abbiamo Terme di Merese, sono molte le stazioni che sono e qui noi abbiamo un beneficio per tutta la nostra muscolatura, articolazioni e tutto quello che le salso bromoiodiche sono indicate anche per quanto riguarda tutte le forme di patologie delle vie respiratorie alte e basse, perché sì, sono molto indicate nelle insufflazioni, ma anche nell'aerosol terapia, quindi sì, hanno altri tipi di indicazioni. Sono indicate anche nelle malattie reumatiche, sì, quindi hanno una doppia o tripla indicazione. Fantastico. I famosi due piccioni con una fava, con un'acqua, potremmo sì, possiamo, dire. Ma la caratteristica delle acque termali è che non hanno un'unica indicazione. Per esempio le acque sulfure, in Toscana c'è Rapolano, Saturnia, sono le acque che possono essere utili anche nelle forme reumatiche, ma sono anche utili in certe patologie della pelle. Mm. E quindi ci sono diverse possibilità di avere delle indicazioni. Le bicarbonate solfate, che sono varie in Italia, penso alle Terme dei Papi a Viterbo, ancora in Toscana a Casciana. Ma scusi professore, ci sono delle controindicazioni? Perché così rispondiamo a Caterina, ma poi volevo farle un'altra domanda. Come tutte le forme di indicazione, quindi di terapia termale, ci sono sempre delle controindicazioni. Innanzitutto la prima controindicazione, la più importante forse delle terme, è che non bisogna mai fare trattamenti termali di alcun tipo quando c'è l'acuzie, cioè quando la malattia è acuta, quando è in fase florida. Sì. Mentre le malattie termali, le terapie termali sono utilissime nella fase cronica per la prevenzione e nella fase subacuta. Nel caso specifico della signora Caterina, che parlava di un melanoma in situ, ci sono delle controindicazioni relative alle terapie termali per quanto riguarda le patologie tumorali, solo quando ci sono ovviamente neoplasie in atto, sì, oppure quando ci sono degli interventi per neoplasie maligne ovviamente, sì, da un anno a questa parte. Quindi poi per il resto non esistono controindicazioni. Quindi professore, dato che noi viviamo in un paese ricco di acque termali, prima di prenotare anche un soggiorno di un solo weekend alle terme, lei consiglia di considerare le proprietà delle acque termali di quella stazione per avvantaggiarsi al massimo dei benefici? Che dice? Sì, questa è una buona idea, però potenziale utilizzatore delle terme dovrebbe avvalersi di una chiacchierata, di una consulenza con il proprio medico di famiglia, il quale è in grado di consigliare per il problema specifico, come dicevo prima, sempre personalizzare e soggettivare le cure, sì, può può consigliare un tipo di acqua piuttosto che un altro tipo di acqua, quindi rivolgersi sempre in questo caso al medico di famiglia. Anche le terme stesse hanno ovviamente dei direttori sanitari, sì, e dei medici consulenti che possono essere consultati anche via online, sì, o telefonica, e danno delle risposte adeguate. Quindi è sempre bene informarsi prima di scegliere una stazione termale. C'è il proprio medico di famiglia oppure c'è il medico delle terme. E senza sostituirci al medico di famiglia o alle terme, c'è anche il nostro numero verde oggi 800 24 00 24. Vorrei parlare poi anche con il professor Bonsignori di talassoterapia, perché i miei ascoltatori sono molto curiosi. Alcuni mi scrivono: la prova all'estero e qua in Italia. Ma torniamo ai massaggi. Alla signora Fresta volevo chiederle: qual è il momento giusto per fare i massaggi, se esiste? Prima o dopo il bagno turco, dopo il trattamento con l'acqua? C'è un momento ottimale per preparare il corpo a così ricevere le pazienti e dosate manipolazioni dell'operatore? Ma diciamo che si può fare indifferentemente, prima o dopo, considerando l'obiettivo che si vuole raggiungere. Sì. Se ad esempio abbiamo difficoltà nel momento in cui facciamo sauna, bagno turco, ad avere l'effetto essudativo, il poter stimolare il corpo prima di seguire queste pratiche può essere utile per poi far sviluppare al meglio tutto il concetto dell'essudazione che viene stimolata attraverso i vari passaggi, nei vari step tra bagno turco, bagno mediterraneo, sauna o via bagni dicendo, di vapore, insomma, quant'altro. Bagno di vapore, certo. Quant'altro. E ovviamente seguendo sempre, questo deve essere una regola, sempre seguendo i tempi di riposo e i tempi di refrigerazione, in modo da non sfiancare mai il corpo oltre misura, perché altrimenti... Ecco, che... questo è importante, mi sembra importante sottolinearlo, signora Fresta, cioè diamo tempo al nostro corpo, al nostro organismo di avere l'adeguata risposta. Sì, altrimenti si segnalano delle persone che rinunciano a fare a utilizzare questi percorsi che sono benefici e sono assolutamente gradevoli, perché facendoli nel modo sbagliato, ecco, ottengono una risposta sbagliata del corpo, che probabilmente già sotto stress, abbastanza intossinato, arriva e riceve una stimolazione troppo violenta. Troppo, perché non è abituato, dice, per un sacco di tempo non ti sei neanche curato di me, adesso troppe coccole. Patrizia da Udine, buongiorno. Buongiorno, io volevo porre questa domanda riguardo il massaggio drenaggio linfatico, sì, o linfodrenaggio. Mi hanno detto che esiste quello estetico e quello curativo. Volevo sapere se è vero. Signora Fresta, esiste il massaggio estetico e curativo per quanto riguarda il linfodrenaggio? Guardi, poi il professore ci può sicuramente dare una mano, ma quello che il drenaggio linfatico è una particolare tecnica che aiuta attraverso un ritmo e un tempo giusto, una pressione adeguata e una modalità di applicazione, aiuta a drenare, quindi ad agire sul sistema linfatico drenando i liquidi. E quindi questo non credo che ci possano essere differenze fra il terapeutico e l'estetico quando si fa un drenaggio linfatico, perché spesso il drenaggio linfatico viene confuso con qualcos'altro, ma se parliamo di drenaggio linfatico, cioè praticamente di massaggi, cioè che il drenaggio linfatico fatto, perché a volte viene proposto come il drenaggio linfatico un massaggio di tipo base, un massaggio di tipo tradizionale, e però i ritmi di un drenaggio linfatico sono assolutamente diversi. Come sono? Così io li riconosco? Sono dei pompage fatti con un certo ritmo, quindi una certa lentezza che segue un tempo che in genere è diviso in quattro tempi specifici e che parte dal il massaggio viene sviluppato attraverso l'apertura dei gangli linfatici, quindi ci sono dei pompaggi. Quindi è un massaggio abbastanza impegnativo. Direi che è un massaggio. Quindi non c'è differenza tra estetica e curativa, è un massaggio profondo? Quindi? È un massaggio, diciamo, che non ha una pressione molto profonda, perché deve rispettare il ritorno linfatico che è più un pompage che non sì. un vero e proprio massaggio. Sono un po' come, le onde del mare, no? Che ci massaggiano. Professor Bonsignori, vengo a lei perché io le leggo solo uno dei messaggi che arrivano riguardo alla talassoterapia. Antonella ci scrive: sono amante delle terme, in Spagna ho scoperto la talassoterapia. Perché in Italia costi così elevati e soprattutto è così rara? Sono convinta che fa benissimo a chi ha problemi di ritenzione idrica. Non risponda ora, professor Bonsignori, perché adesso noi ci trasferiremo tra poco al mare, ma andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo insieme. Consigli per trattamenti termali, massaggi, sauna, bagno turco e andiamo naturalmente anche al mare. Essere e benessere. Che c'è la besciamello della vigna? Cos'è la besciamello? Mai sentito? Anche una? È quella allora brava. Beh, c'è la besciamello. Sposta, non mi tocca. Sposta. Non ho fatto niente, ho fatto così. È sudata. E alle 17. Cosa c'è? Ti fanno l'impacco e l'involtino di foglia di vite. Embriaco. Ah, bello. Addirittura? Ma come no? Sei tesa qua. Sei tesa. Dove? Sei unta e tesa qua. Qua. Sei tipo un osso. Ma quale osso? Questo è normale. Ma si è fatta male. Meno male che qua ti trattamentano bene. Le trattamentano. Meno male. Mattina presto cominciano, alle 4:30. Alle 4:30. Potrebbero iniziare. No, alle 4:30 l'aromaterapia. Come funziona? Mamma mia, che te senti? Che t'annusi proprio? T'annusi l'odore del caffè. Del caffè. Ma solo l'odore. Solo l'odore. Aromaterapia. Elimino tossine. Allora eliminala dalla parte tua. Che fai schifo. Ma basta. Riprendiamo il passo con un breve estratto da Mai dire martedì. Professor Bonsignori, ci porta un po' anche al mare? Ne abbiamo tanto. La talassoterapia, come tu sai, è un po' una mia passione, abbiamo parlato spesso anche fuori dai microfoni. La talassoterapia è una pratica medica che è conosciuta fino dall'antichità, i benefici del mare erano conosciuti da sempre, però è tornata di grandissimo interesse proprio grazie alla modernità, quindi alle ricerche, allo sviluppo delle tecniche idrotermali. E quindi abbiamo capito come la talassoterapia, talas vuol dire mare in greco, sia una straordinaria opportunità che fa parte a pieno titolo della medicina termale. Quindi c'è un'acqua minerale che è l'acqua di mare, che è l'acqua minerale più completa in natura. Poi ci sono i fanghi, c'è la sabbia, ci sono le alghe e c'è il clima. Quindi è l'utilizzo di questi mezzi solo naturali che complessivamente, insieme, in sinergia o da soli, hanno una notevole azione sul nostro organismo di benessere, di cura, di prevenzione. Quindi mi dispiace un po' che la nostra ascoltatrice di prima abbia scoperto in Spagna. La talassoterapia in Spagna. L'importante è che l'abbia scoperta, ma l'ha scoperta in Spagna. Però anche noi in Italia ci stiamo organizzando, no? Noi con in Italia tutto questo mare. Noi abbiamo grandissime tradizioni e poi oltretutto abbiamo questa splendida caratteristica geografica che nessuno ci potrà mai togliere. E i centri talassoterapici, quelli veri, quelli col bollino blu, quelli che rispettano le regole internazionali, sono ancora pochi. Però ultimamente stanno veramente aumentando, sia perché c'è veramente una consapevolezza che le risposte sono molto buone, con solo mezzi naturali, e sia perché c'è veramente una richiesta, una domanda che sta crescendo. Chi è che, secondo lei, per chi è indicata un soggiorno in un centro di talassoterapia rispetto a un centro termale? Rispetto a un centro termale, perché la talassoterapia ha anche qui un passo in più. Alle terme abbiamo due mezzi straordinari, che sono l'acqua e i fanghi. Sì. In talassoterapia abbiamo più mezzi, come dicevo prima, abbiamo l'acqua, i fanghi, che in questo caso si chiamano limi, la sabbia, il clima, la climatologia marina è straordinaria, e le alghe. Quindi abbiamo più mezzi rispetto a un termalismo classico e utilizziamo le stesse tecniche del termalismo. Alcune sono un po' esclusive, come le tanto conosciute un tempo e ora un po' abbandonate sabbiature, come gli impacchi di alghe, e mentre molte sono simili a quelle che si fanno in tutti i luoghi termali, con il valore aggiunto straordinario del clima. Il clima marino sappiamo che è sempre stato da sempre un clima benefico. C'è una stagione ideale? No, non c'è una stagione ideale. Va sempre bene. Va sempre bene, specialmente sul Mediterraneo. Ci sono dei grandi centri che hanno fatto la storia della talassoterapia in Francia, che sono sul Canale della Manica o sull'Atlantico, dove l'inverno è veramente un po' duro. Sì, però loro sono temperati. dannoso mediterraneo, si può fare talassoterapia realmente tutto l'anno. Voglio rispondere agli ascoltatori che ci hanno chiamato all'800240024. Domande rapide, risposte flash. Andrea da Modena, buongiorno. Andrea? Buongiorno, buongiorno. Per un'informazione, allora, riguardo che io faccio un'attività sportiva tutto l'anno, quando sono più indicate per migliorare anche le prestazioni, diciamo, fisiche, oppure queste tipi di terme, che tipi di terme sono migliori, con la sauna, bagno turco, oppure fanghi? Per migliorare anche fisicamente il corpo, se farle prima o dopo? So che sarebbe meglio anche prima e dopo, ma e durante, quando? Sì, quando? Professor Bonsignori. Noi abbiamo una buona esperienza con gli sportivi. Con sportivi, sì, abbiamo una buona esperienza perché, come dicevo prima, l'età media di chi viene alle terme o un centro talassoterapico o un centro di benessere è nettamente abbassata rispetto al passato. Noi consigliamo dei trattamenti termali dopo l'attività sportiva, il giorno dopo, oppure anche durante gli allenamenti, soprattutto la bagnoterapia per corsi acquatici, specialmente se il nostro Andrea da Modena fa corsa o fa bici o fa una movimentazione sulle gambe importante, ci sono dei percorsi acquatici proprio indicati come un toccasana dopo una serie di allenamenti o anche dopo una vera e propria gara. Quindi sono dopo. Sportivi anche di squadre professioniste che sono ormai vanno abituati proprio, sì. Il lunedì o la domenica a fare proprio dei bagni. Fortunati loro. Maria Luisa dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno dottoressa Carboni. Andiamo a farci. Volevo ringraziare per la sua trasmissione sempre illuminante. Grazie Maria Luisa. E volevo chiederle, io soffro di disturbi di circolazione agli arti inferiori. Sì. Una cosa lieve e volevo chiedere al professore se esistono massaggi e quali e cosa evitare appunto chiediamolo a Vincenza Fresta, che è proprio il campo suo quello dei massaggi. Signora Fresta, disturbi di circolazione, quali massaggi? Allora, intanto la scelta sul massaggio deve essere una scelta di un massaggio che può trattare tutto il corpo. Sì, non solo le gambe. Non solo le gambe. Ecco, questa è una buona indicazione, grazie. Questa è un'indicazione, quindi tutto il corpo, in modo da alleggerire anche l'addome e quindi migliorare poi la circolazione, non tanto con manualità molto forti sulle gambe, ma che possono però riattivare bene tutto il flusso attraverso tutti i punti riflessi che troviamo nel corpo. E si poi hanno dei benefici, vero? Con un ciclo anche di massaggi? Si hanno grandi benefici nel sentire le gambe più leggere. Più leggere, più le gambe con le ali. Professor Bonsignori, anche dei trattamenti con l'acqua termale vanno bene per le gambe? Ci sono degli ottimi trattamenti nelle spa e anche nelle acque ovviamente termali. Le più indicate in questo caso sono le acque salso bromoiotiche o l'acqua marina oppure le acque salso bromoiotiche, perché hanno un'azione anti-edema, cioè riducono quello che può essere un gonfiore alle caviglie oppure anche più alto. Ci sono, come dicevo prima, dei veri e propri percorsi, cioè si passeggia in acqua, in percorsi acquatici, con l'acqua che arriva fino al busto e magari si passa da un'acqua di una temperatura a un'acqua di una temperatura più bassa, in modo da creare anche una vera e propria ginnastica vascolare come risposta al cambio di temperatura. Quindi si cammina in acqua, si cambia temperatura e si stimola la circolazione venosa e linfatica, perché credo che la nostra ascoltatrice, quando ha parlato di insufficienza circolatoria, si riferisse a insufficienza circolatoria venosa, sempre con l'indicazione che dicevo prima di fare molta attenzione, perché la nostra ascoltatrice parlava di un problemino lieve e quindi va benissimo, però quando c'è un'insufficienza venosa importante, e mi riferisco fino alle varici o ad altre problematiche, allora in quel campo lì sia il massaggio sia un trattamento termale con acqua calda non sono indicati. Allora, io devo salutarvi, ringrazio Vincenza Fresta per essere stata con noi, il professor Fausto Bonsignori, grazie davvero, ci avete fatto sognare, perché grazie io mi a sento, voi. A me sembra già di essere, ce l'avete raccontata così in modo così piacevole, che mi sembra di aver fatto un massaggio. Io intanto vi rimando, come sempre, al nostro laboratorio del benessere, il nostro Daily Lab, ogni giorno i nostri esperti vi consigliano, vi danno una chicca da mettere subito in pratica per stare meglio e sto pensando, ma poi magari cambiamo idea, che dato che sono arrivati tantissimi messaggi sulle gambe, magari in questa settimana facciamo ancora una puntatina sulle gambe, adesso si scopriranno tra breve, si tolgono le calze, insomma ci pensiamo, intanto se a voi piace scrivetemelo, profilo Facebook, Essere Benessere, grazie, buona giornata a voi, statemi bene. Essere Benessere.